Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se tu lo giri è uguale, si dà ragione da solo, anche da bambino lui si incoraggiava a dare sfogo ai suoi difetti. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ha più la fama di Mr. Hyde, in realtà è molto Dr. Jekyll. Intanto buongiorno da Nicoletta, so di essere un po' sibillina, ma questa è un po' la sorte che tocca a una sostanza che è indispensabile per la nostra vita, ma che ciò nonostante ha una pessima fama, tanto che basta pronunciare il suo nome per sentirci in pericolo. Toliedo, prego. Le sue analisi, per favore, grazie. Molto gentile. Bellissime, stupende, azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose, complimenti. Grazie. Prego. Colesterolo delicatissimo, così dovremmo presentarlo o iniziare a considerarlo. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Borghi, direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito. Professore, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Sì, per la verità questa è una frase che si applica perfettamente al colesterolo. Il colesterolo ha questo significato sinistro che gli si attribuisce, ma in pratica è una sostanza per noi assolutamente indispensabile, perché entra nella costituzione delle membrane delle nostre cellule, entra nella produzione di ormoni, entra nella produzione delle vitamine, ed è una sostanza senza la quale noi non potremo vivere. Quindi sicuramente è qualcosa del quale abbiamo bisogno e che rende la nostra vita più semplice. E se voi avete voglia o bisogno di parlare con noi, 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter, oppure inviarci un messaggio al 349 238 6666. Professor Borghi, è anche vero che il dottor Jekyll si trasforma in Mr. Hyde? Si può trasformarsi in Mr. Hyde ovviamente quando la sua concentrazione, quindi la quantità di colesterolo che circola nel nostro sangue, supera un certo livello. È naturale che sulla base di quello che ho raccontato prima ce n'è una quota che serve, ma quando questa quota diventa eccessiva, proprio l'eccesso tende a depositarsi nella parete delle nostre arterie e quindi genera tutte quelle complicanze delle quali noi abbiamo così paura e che alla fine possono dare origine alle malattie cardiovascolari. Quindi in pratica non è esattamente una trasformazione della sostanza, è una questione di quantità, forse si potrebbe dire più facilmente che il troppo stroppia. Mi piace, professore, e quando diventa troppo si trasforma in una specie di ruggine che può danneggiarci e compromettere la nostra salute generale. Certo, il paragone che lei propone mi sembra eccellente, perché è chiaro che quando il colesterolo si deposita tende a alterare la parete dei nostri vasi, esattamente come la ruggine tende a alterare ad esempio la superficie interna dei tubi. In quel caso rende più difficile il passaggio dell'acqua, ad esempio, nel nostro caso rende più difficile il passaggio del sangue, ed è in qualche modo simile a quello che si verifica in altri organi cavi, pensi ad esempio alle articolazioni, dove alcune sostanze si depositano, rendono più difficile il movimento dell'articolazione e hanno lo stesso effetto ruggine che il colesterolo ha a livello delle arterie. Dannata ruggine, professor Borghi, nelle nostre arterie non si vede, ma nelle articolazioni si sente. In linea con noi abbiamo la professoressa Daniela Lucini. Buongiorno. Buongiorno. Associata all'Università di Milano e responsabile della sezione di medicina dell'esercizio all'Humanitas. Professoressa Lucini, noi avvertiamo proprio la sensazione della ruggine quando ad esempio sentiamo le nostre articolazioni, che quando ci muoviamo avvertiamo un po' di dolore, tanto che diciamo sono tutto rotto, sono un po' arrugginito. È vero, questa è una cosa che può succedere soprattutto quando una persona non si muove, fa una vita completamente sedentaria e a prescindere magari da altre patologie che possono aiutare a far questo, ma generalmente proprio lo stare tanto fermo, il non muoversi, dà proprio questa sensazione di ruggine, come quello che stavamo dicendo prima. Il problema è come fare a tirarla via, come riuscire in un certo modo a muoversi un pochettino di più. Indubbiamente fare attività fisica può aiutare. Non dimentichiamoci però che, esattamente come è stato detto prima per il colesterolo, anche l'esercizio fisico assomiglia un po' al nostro dottor Jackie del Mr. Hyde, cioè può avere due facce. Se non c'è l'esercizio fisico, possiamo andare incontro a tutta una serie di guai. Viceversa, un esercizio fisico fatto troppo o soprattutto fatto male, sì, può crearci dei problemi. Quando dice fatto male? Quando dico fatto male, cosa dico? Dico fatto di più di quello che sono le capacità che una persona ha, fatto con delle modalità che non sono quelle giuste, fatto in condizioni climatiche o, che ne so io, con delle attrezzature che non sono quelle ideali. Quindi, quando parliamo di esercizio, è come esattamente quando parliamo con un farmaco, io devo prescriverlo nella maniera corretta. Cioè dire, devi fare questo tipo di esercizio, correre è diverso che fare pesi piuttosto che fare ginnastica cosiddetta aerobica, devo precisare per quanto tempo lo devo fare, sì, devo precisare per quante volte alla settimana o al giorno devo farlo, devo soprattutto precisare la fatica, quella che noi chiamiamo intensità di esercizio, e ancora di più la progressione, cioè come faccio da completamente sedentario a diventare attivo. Se rispetto tutte queste cose, l'esercizio è un antiruggine perfetto, il migliore che ne possiamo avere. È vero, perché il movimento non solo evita che si formino nelle articolazioni quella ruggine di cui parlavamo, ma spazza via anche la ruggine che si trova nelle arterie. Assolutamente. È una terapia, vero, anticolesterolo. Sì, soprattutto... Vero, professor Borghi? Concorda? Non c'è dubbio, concordo al 100%, cioè tutti i documenti di consenso, quelli che noi chiamiamo linee guida, pongono al primo posto della terapia contro il colesterolo proprio quelle che si chiamano modificazioni dello stile di vita, e una di queste, tra le più importanti, è l'aumento dell'attività fisica, esattamente come diceva Daniela Lucini, quella è la cosa che si deve fare. Naturalmente l'aumento dell'attività fisica favorisce non solo una ripresa di elasticità del nostro sistema arterioso, ma anche riduce la probabilità che il colesterolo si depositi nei luoghi sbagliati, che quindi generi quella ruggine che poi a sua volta potrebbe complicarsi nel nostro futuro. Quindi sicuramente l'attività fisica è uno degli elementi centrali per proteggersi dalla ruggine che deriva dal colesterolo. Professoressa Lucini, quindi noi siamo pronti con carta e penna per prendere nota. Cosa bisogna fare? Questo, cioè, che siamo questo veniamo al buono, insomma. Al buono. Teniamo presente che l'attività fisica, parlando di colesterolo, è quella che tra l'altro aumenta il colesterolo HDL, quello cosiddetto buono. Teniamo conto che però ce ne vuole tanta di attività fisica per fare questo, però ce ne può volere anche di meno per fare cose altrettanto buone, sia per quanto riguarda gli aspetti metabolici che quelli articolari. Quindi che cosa fare? Al di là di quello che teoricamente sanno tutti, le famose, tu devi fare almeno 30 minuti al giorno di camminata a passo veloce, la cosa importante è come faccio. Allora, la prima regola è questa: fare qualcosa in più rispetto a quello che noi facciamo è già un'ottima cosa. Mi piace, okay? Questo. Quello, sì, che io dico ai pazienti che mi dicono, ma io non ce la farò mai a diventare un atleta, non ce la farò mai andare a correre, non ce la farò mai andare a camminare tutti i giorni. Tu incominci a fare di più di quello che fai. Quindi, prima cosa, quantifico la mia situazione di base e mi pongo degli obiettivi realistici e significativi. Magari se me li pongo con il mio medico è anche meglio. Faccio qualcosa in più con l'obiettivo di arrivare ai nostri 30 minuti di camminata. Poi ci sono tecniche anche abbastanza divertenti. L'interval training, cammino per 3 o 4 minuti, poi mi faccio un minuto o due di jogging, poi siccome sono stanco non mi fermo, riprendo a camminare e ogni giorno aumento di più. Piuttosto che anche se sono in casa, ho un attimo di tempo, cerco di camminare in casa. Sembra una banalità, però funziona tantissimo. Sono in ufficio, devo andare 3 o 4 volte al piano di sopra, lo faccio a piedi, ma sempre incrementando quello che io devo fare. Poi, una volta che ho tolto anche la ruggine dal mio cervello, mi lasci dire anche questa cosa, che mi impedisce la volontà di incominciare a camminare e di muovermi, sì. Allora, magari con l'aiuto di una prescrizione fatta bene, è sicuramente possibile riuscire a incominciare a diventare fisicamente più attivi, con benefici per l'articolazione, i vasi e tante altre cose. Professoressa Lucini, abbiamo preso nota, facciamo qualche cosa in più rispetto a ieri, sempre brava, un pezzettino di più, e magari togliamo qualche cosa in meno, magari delle cattive abitudini che pesano sulla nostra salute. Ottimo. Vero? Cosa. Le piace questo progetto? Mi sembra super fantastico. Magnifico, mi piace perché mi sembra facilmente realizzabile, abbiamo bisogno di cose semplici per cambiare. Sì. Professoressa Lucini, spero di averla qua presto da noi. La ringrazio, intanto le auguro piacere. Una buona giornata. Altrettanto, a presto. Se tu lo giri è uguale, si dà ragione da solo, anche da bambino lui si incoraggiava a dare sfogo ai suoi difetti. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Professor Borghi, riprendiamo il nostro amico che si trasforma, da buono diventa cattivo, è un problema di quantità, anche una delle cause è la sedentarietà, ma allora professor Borghi, tutti i sedentari sono a rischio? La nostra dieta quanto conta? Fondamentalmente dire che tutti i sedentari sono a rischio probabilmente getterebbe nel panico tutti coloro che passano parte della loro giornata per vari motivi seduti. Certamente tutti i sedentari hanno una maggiore probabilità di sviluppare qualche complicanza rispetto invece a chi è abituato a muoversi, quindi fondamentalmente l'aspetto importante è cercare di considerare il movimento come una parte integrante della nostra giornata. Chiaro che sul rischio non incide soltanto il fatto di essere sedentari, ma incidono una serie di elementi, molti dei quali sono, come si dice oggi, geneticamente trasmessi, quindi fanno parte della nostra famiglia e quindi di quello che noi ereditiamo dai nostri genitori, dal nostro albero genealogico, per cui possiamo trovarci in una posizione più o meno esposta al rischio, soprattutto per quello che riguarda le malattie cardiovascolari e in particolare per quello che riguarda i potenziali effetti negativi del colesterolo. Ma certamente il fatto di essere sedentari incide su quella quota che dipende da noi e non dipende dalla nostra genetica, e per questo motivo è una cosa ancora più importante che noi ne prendiamo atto e cerchiamo di agire nei confronti del movimento in senso favorevole, perché mentre nei confronti della genetica non abbiamo molte soluzioni, noi siamo quello che ereditiamo dalla nostra famiglia, nei confronti della sedentarietà è qualcosa col quale noi possiamo prenderci cura di noi stessi, quindi abbiamo sicuramente il dovere di farlo. Abbiamo in linea con noi Mauro, ci chiama da Mantova all'800 24 00 24. Benvenuto Mauro, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno sotto la neve. Sotto la neve, anche qua viene giù, Mauro. Siamo ritornati ripiombati proprio nell'inverno. È vero che siamo ancora in inverno, ma insomma un'atmosfera molto invernale. Mauro, poi arriverà la primavera. Mi racconti di lei. Teniamo dunque, duro. Io ho 47 anni. Sì. Penso di avere un colesterolo leggermente alto, appena sopra i 200. Mm. E mi hanno detto, a parte tutte queste cose che in teoria si sanno, di mangiare del riso rosso, che dovrebbe contribuire a abbassare il colesterolo. E l'ha mangiato lei? Sì, però come tutte le cose è buono una volta, due, tre, ma dopo alla lunga stacca. Mauro, professor Borghi. Certo, no, Mauro ha perfettamente ragione, anche chi gli ha dato il consiglio ha ragione, perché all'interno del riso rosso è contenuta quella che si chiama statina naturale. Lei sa che le statine sono oggi il farmaco di scelta per abbassare la colesterolemia, e le statine di prima origine avevano un'origine vegetale, e uno dei composti da cui originavano queste forme vegetali era proprio il riso rosso. Quindi all'interno del riso rosso c'è una statina che contribuisce a ridurre la colesterolemia. Comprendo però quello che dice Mauro, che mangiare ogni giorno riso rosso credo che sia una pratica poco palatabile, quindi poco divertente. E quindi probabilmente nell'ambito della dieta generale il riso rosso può svolgere la sua funzione, ma forse vale la pena, se viene integrato con una dieta di orizzonte un pochino più ampio, all'interno della quale siano già contenuti cibi che hanno un basso contenuto di colesterolo, che quindi possono contribuire, Mauro, ad aiutarlo nella dieta, indipendentemente dal fatto di mangiare ogni giorno riso rosso. Professore, a questo proposito, ci sono degli alimenti che ci aiutano a tenere sotto controllo il nostro colesterolo e forse anche ad aumentare il colesterolo buono, sbaglio? Sono i famosi nutraceutici. Certo, e il nutraceutico la ringrazio di essere entrati in questo argomento, è una definizione, diciamo, omnicomprensiva, a carattere generale, che fa riferimento a tutte quelle sostanze che di derivazione nutrizionale, quindi qualcosa contenuta nei cibi, svolge un'azione che ha invece un effetto del tutto simile a quello dei farmaci, quindi di tipo farmaceutico. È un modo di curarsi, se vogliamo, in modo naturale, e tra alcune di queste naturalmente ce ne sono un certo numero che sono in grado di influenzare favorevolmente il colesterolo. Forse i fitosteroli, ad esempio, che sono contenuti in alcuni yogurt, insomma in alcune sostanze che sono preparate appositamente, sono l'essenza più elevata della caratteristica di una sostanza nutraceutica in grado di influire sul colesterolo, ma ne esistono molte altre che possono avere questa influenza. Banalmente una delle più semplici è il vino. Il vino rosso ha un effetto favorevole nei confronti soprattutto dei livelli di colesterolo buono, di colesterolo HDL, e se vuole rispetta esattamente le caratteristiche della definizione di una sostanza nutraceutica. È un prodotto nutrizionale di derivazione naturale, ma alcune componenti che sono in grado di svolgere un'azione farmaceutica e quindi in grado di influire favorevolmente sulla nostra salute. Il rosso e non il bianco, professor Borghi, naturalmente in modiche quantità, questo lo sottolineiamo sempre. Questo è un vecchio dilemma che originariamente scatenò una specie di guerra di religione fra l'Italia e la Francia, o fra la Francia e tutti i paesi che non producevano un certo tipo di vino rosso. Oggi il quadro si è ridimensionato, nel senso che noi sappiamo per certo che modiche quantità di alcol, qualunque ne sia l'origine, intendo naturalmente modiche, possono agire favorevolmente soprattutto nei confronti dei livelli di colesterolo HDL. Quindi questo può succedere per il vino bianco, per il vino rosso, può succedere per la birra e anche per piccole quantità di superalcolici. In generale si ritiene che il vino rosso, contenga alcune sostanze additive che si chiamano polifenoli, che potrebbero avere un effetto ulteriore sulla, diciamo, miglioramento generale del profilo di rischio cardiovascolare, per cui accanto a un miglior controllo dei livelli di colesterolo ci sarebbe anche un minimo vantaggio nei confronti del controllo della pressione arteriosa. Quindi questi due elementi insieme potrebbero risultare più protettivi. Nel nostro elenco, oltre ai fitosteroli, al vino, il vino rosso, aggiungiamo il riso rosso di cui parlava il nostro ascoltatore. Che cosa aggiungiamo? Ma fondamentalmente la frutta e la verdura, che ha un effetto sostanziale, soprattutto se molto colorata, e noi dovremmo mangiarne almeno una porzione al giorno, è il mio suggerimento, ma non meno di 3 alla settimana. Credo che un'altra cosa importante da aggiungere sia il pesce. Il pesce noi non lo mangiamo in quantità sufficiente, soprattutto pesci di mari freddi che contengono anche elevate concentrazioni di acidi grassi omega 3, che complessivamente possono contribuire sia a migliorare una certa parte del nostro profilo di concentrazione di grassi nel sangue, sia naturalmente avere un effetto vantaggioso sulla parete delle arterie e quindi contribuire a ridurre la probabilità che quella ruggine alla quale lei faceva riferimento in precedenza si possa sviluppare. Quindi fondamentalmente esistono parecchi cibi con i quali possiamo variare la dieta e non essere obbligati solo a mangiare sempre il riso rosso. Certo, professore, prima di darla nei mercati vorrei salutare Luca che ci chiama da Firenze. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Luca, che ci dice? Dunque, io ho 50 anni, da diversi anni faccio attività agonistica, nuoto soprattutto, e mi sottopongo regolarmente a visite medico-agonistiche. Ho un colesterolo tendenzialmente alto, di origine genetica presumibilmente, che l'ho sempre avuto sopra i 200. Ora, recentemente, cioè un anno fa, è arrivata a 270 e sono peso normale, nel senso non sono sovrappeso e non faccio attività sedentaria come lavoro. E, nonostante questo, nonostante questo i valori si sono alzati. Luca, com'è la sua dieta? Allora, io amo molto i formaggi e i dolci, per cui il mio medico mi ha detto proviamo a fare 3 mesi di dieta assoluta e vediamo. Dopodiché potrebbe, se il valore non diminuisce, potremmo pensare a iniziare le cure farmacologiche. Certo. Ora la mia domanda è questa: devo necessariamente, qualora non si dovesse abbassare, pensare a un futuro con le pasticche, o posso pensare eventualmente anche di rivolgermi a, come si parlava prima, cibi particolari piuttosto che yogurt? Certo, nutraceutici e quanto ci ha detto il professor Borghi. Allora, professore, questa è un po' la domanda che racchiude molte delle domande che stanno arrivando al 349-238-6666, che mi dicono in sostanza la dieta fino a quando e poi bisogna ricorrere ai farmaci. Si prova prima con una modifica dello stile di vita per poi valutare un po' la situazione. Essere e benessere. Quando facciamo gli auguri di compleanno a un nostro amico e glieli facciamo cantando, cantiamo sempre la stessa canzone: tanti auguri a te, è un classico, la conosciamo tutti. Ma peccato non avere delle canzoni dei cantautori per fare gli auguri di compleanno. Sarebbe bello avere delle canzoni scritte da loro, con la loro poetica, con la loro sensibilità. Ci vorrebbe l'augurio di compleanno di Jovanotti. Jovanotti farebbe un rap, il rap farebbe così: è tuo compleanno, quindi stai contento, ma non dimenticarti dell'inquinamento. Fa una bella festa, invita tanta gente, ma dopo non disperderli in vuoto nell'ambiente. È il tuo compleanno, dura un giorno solo, ma attento, nella torta c'è il colesterolo. Nella torta c'è il colesterolo. Professor Borghi, in effetti nella torta c'è il colesterolo, tanto che al nostro amico di Firenze il medico ha suggerito, piano con i dolci, piano coi formaggi, e poi vediamo che cosa decide di fare questo colesterolo. Sì, nella torta ci può essere anche il colesterolo, non tutte le torte contengono il colesterolo, ma molte naturalmente le contengono, più che altro per la componente che c'è nei grassi, nel burro ad esempio, che viene utilizzato per produrre le torte di maggiore qualità e di migliore qualità, non c'è dubbio. Però credo che il consiglio che sia stato dato al nostro amico sia un consiglio corretto, forse più sul versante dei formaggi che sul versante delle torte. Le torte vengono associate più ad alterazioni del metabolismo dello zucchero sostanzialmente, quindi sul versante dei grassi nel sangue, forse più ai trigliceridi rispetto ai livelli di colesterolo, ma anche sui livelli di colesterolo hanno certamente una loro influenza, mentre il formaggio ovviamente ha un maggiore contenuto di colesterolo, soprattutto il formaggio stagionato. Il nostro amico era toscano e in Toscana c'è un'area di produzione di formaggi straordinariamente buoni come qualità, ma anche piuttosto poderosi dal punto di vista della stagionatura e quindi con elevate concentrazioni di colesterolo. Ma nel caso del nostro amico sicuramente l'aspetto più importante è quello che lui ha descritto, la sua genetica, il fatto che lui provenga da una famiglia nella quale è presente ipercolesterolemia. È proprio il suo valore di colesterolo, quel 270 mg per decilitro a testa di questa familiarità. Noi in generale riteniamo che al di sopra di quel valore ci si trovi in un'area fortemente genetica, dove naturalmente la dieta ha una influenza, ma un'influenza che si può quantificare intorno al 10-12%, ossia se lui abolisse completamente il colesterolo dalla propria dieta, riuscirebbe a ridurre quel suo valore probabilmente di una quantità corrispondente al 10-12% del valore totale. E quindi necessariamente queste forme genetiche, poiché il nostro ascoltatore se lo chiedeva, hanno quasi sempre un'evoluzione verso la necessità di una pasticchina, quindi di un trattamento farmacologico. Quello che è importante è non dimenticare che il trattamento farmacologico non è l'alternativa alla dieta, l'integrazione della dieta, perché molti dei nostri pazienti vedono alcune volte nella compressa la salvezza della loro possibilità di mangiare qualsiasi tipo certo, di cibo. Certo, no? Dico, prendo la pastiglia almeno, esatto, me la godo. Io il venerdì esco con gli amici, loro mangiano, io no, dottore per favore mi dia una pasticca perché così io posso ricominciare a mangiare con gli amici, perché la pasticca compensa per i miei stravizi alimentari. Non è esattamente così, la dieta deve essere mantenuta, alcuni cibi devono essere evitati, altri, quelli che dicevamo in precedenza, devono essere più rappresentati nella nostra dieta, e come integrazione naturalmente è necessario rallentare un pochino questo nostro fegato così effervescente che per genetica tende a produrre una quantità superiore di colesterolo, e noi dobbiamo cercare da quel punto di vista di metterlo un po' a riposo. Professore, noi abbiamo detto totale, buono, cattivo, abbiamo parlato del colesterolo buono in modo particolare e del livello del colesterolo totale. Il colesterolo, lo sappiamo, si fa in tre. E uretra i numeri vanno considerati, anzi c'è una formula che aiuta a capire se il colesterolo mette a rischio il nostro cuore, vero professore? Certo, esiste una formula perché dal momento in cui ci si è resi conto che praticamente il colesterolo circolante poteva essere identificato in una forma che ha una maggiore possibilità di depositarsi e quindi di generare quella famosa ruggine, è una forma che invece ha l'effetto opposto, che riesce a trascinare via il colesterolo dalla parete delle arterie e quindi funzionare come antiruggine, a quel punto naturalmente si è anche creata la possibilità di quantificare l'uno rispetto all'altro, immaginando che dal rapporto tra questi due fattori, uno che tenta di farci del male e l'altro che tenta di proteggersi, noi potessimo comprendere qual è il nostro rischio, la nostra propensione a sviluppare malattie cardiovascolari. E questo rapporto è esattamente quello al quale lei faceva riferimento ed è un rapporto che si instaura tra il colesterolo totale, quindi quello che è fatto prevalentemente di colesterolo cattivo, e il cosiddetto colesterolo HDL, che è invece il colesterolo buono. E per questo rapporto esiste un valore definito che dovrebbe essere inferiore a 5 per quello che riguarda l'uomo e inferiore a 4,5 per quello che riguarda le donne. Quindi tutti i nostri ascoltatori, se hanno a disposizione i loro esami di laboratorio e riescono a identificare i livelli di colesterolo totale, quindi quello che si chiama colesterolemia totale, e i livelli di colesterolo HDL, possono calcolarsi questo rapporto e comprendere che qualità ha la loro concentrazione nel sangue di grassi circolanti. Quindi per l'uomo questo rapporto deve essere inferiore a 5 e a 4,5 per la, donna, un pochino meno per noi. Carlo ci chiama da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione. Grazie Carlo, lei è gentile. Mi dica. Nulla, l'argomento era proprio questo, cioè al di là del valore massimo di colesterolo che in questo momento da parte, per quel che mi riguarda, è leggermente superiore, oddio leggermente 240, però ho un HDL che è quasi 100. Allora, siccome appunto sapevo che c'era questo rapporto 1 a 5, se io avessi avuto un valore massimo inferiore ai 200 ma un HDL di 20 per esempio, avrei dovuto preoccuparmi di più. Questo era un po' la domanda. E poi una seconda parte della domanda che mi interessa altrettanto. Sì. Troppa frutta, troppi zuccheri semplici, sì, tipo il fruttosio, sì, possono alterare il colesterolo? Perché a me il colesterolo è cominciato a salire un paio d'anni fa, quando mi ero messo in testa di fare una piccola dieta e ho mangiato e mi ero concentrato sulla frutta, sì, e sulla verdura. Sì. Però poi con gli esami del sangue ho visto che il colesterolo cominciava ad andare vicino ai 200 e 220. E lì mangiavo detto... circa un chilo di frutta al giorno, vuol dire 6-7 frutti al giorno, ma frutta non intendo banane. Che frutta mangiava? Mele. Mele, arance, kiwi. Si fa in fretta arrivare al chilo. Professor Borghi, sì, cosa dice lei? Ma devo dire che i quesiti che pone Carlo, il nostro ascoltatore Carlo, sono estremamente interessanti. Il primo è in relazione a questo aspetto del rapporto tra colesterolo totale e colesterolo HDL, è esemplificativo esattamente di una situazione potenzialmente paradossale, ma non tanto paradossale. Certamente i valori che Carlo ci ha raccontato sono per lui un grande patrimonio, perché 100 di colesterolo HDL è un valore tanto inusuale quanto straordinario dal punto di vista della protezione coronarica e quindi della protezione vascolare in generale. Quindi il mio augurio per Carlo è che mantenga questo livello costante. Non so se lui faccia qualche cosa per aumentare il suo colesterolo HDL, probabilmente farà un certo tipo di attività fisica, me lo immagino, perché effettivamente è un valore molto elevato e molto favorevole. Un molto po' da atleta, dice lei. Sì, direi di sì, da atleta e anche con una buona predisposizione genetica verosimilmente verso la produzione di, sì, colesterolo HDL. C'è da dire che effettivamente se lui avesse avuto un valore più basso di colesterolo totale, ma anche così basso come ipotizzava, 20 mg per decilitro di colesterolo HDL, la sua situazione dal punto di vista del rischio cardiovascolare sarebbe stata più elevata. Non tanto per quel valore di 200, sì, quanto per la rivalutazione che quel valore di 200 potrebbe avere alla luce di un valore così basso di colesterolo HDL. Vuol dire che globalmente nel suo bilancio generale, questo è più spostato verso forze che trasportano il colesterolo verso la parete delle arterie, che quindi possono fare venire quella famosa ruggine, rispetto a forze che tendono invece a ripulire la parete delle arterie. E quindi sicuramente il discorso che proponeva Carlo è un discorso che ha una sua logica e che dovrebbe essere utilizzato anche come esempio generale dell'importanza di questo rapporto fra colesterolo totale e HDL. Per quello che riguarda la frutta, certamente la frutta può, entro certi limiti, se mangiata in grande quantità, anche contribuire a generare un aumento del colesterolo, perché all'interno della grande famiglia dei lipidi, quindi dei grassi nel sangue, esistono una serie di possibilità, diciamo, di relazioni di tipo metabolico che sono in grado di trasformare il glucosio in alcuni lipidi più semplici e questi a loro volta essere metabolizzati verso il colesterolo. Per cui non si tratta in generale di un unico canale biochimico, per cui se io mangio A produco B, ma se io mangio A produco una quantità di B, ma produco anche C, produco anche D e alla fine posso andare ad alterare globalmente il mio profilo lipidico. Quindi certamente la frutta è utile, ma mangiarne quantità così importanti qualche problema metabolico lo potrebbe produrre. Parola d'ordine varietà, mi state chiedendo la formula, rapporto tra colesterolo totale e HDL, deve essere inferiore a 5 per l'uomo, 4-5 per la donna. Esercitatevi, provate a farlo anche senza calcolatrice, un po' di esercizio per menti che non arrugginiscono mai. Essere e benessere. Ruggine sotto le dita, che come cola si attacca la vita. Si deposita nelle nostre arterie, si fa sentire nelle nostre articolazioni, ma non solo, invade anche la nostra mente. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, ruggine, menti arrugginite, non conta l'età, non è solamente un problema di anni. Allora ringraziamo la redazione e riprendiamo col professor Barbanti. Non è un problema di anni la ruggine, non solo di anni. Assolutamente, si arrugginisce già da giovani perché abbiamo cambiato l'uso delle nostre funzioni simboliche. Due esempi: la scrittura, noi non utilizziamo quasi più la scrittura se non per firmare e leggiamo pochissimo il corsivo, quindi c'è l'area del linguaggio adiacente a quella e in parte sovrapposta a quella della scrittura e della lettura che funzionano meno, e poi quella della memoria. Noi utilizziamo più la memoria procedurale, cioè del come si fa, che la memoria invece dichiarativa, cioè la memoria dei fatti, degli episodi, e questo può in realtà in parte arrugginire almeno le nostre vecchie funzioni. E quindi, professor Barbanti, immagino che però lei abbia, non dico la soluzione, ma almeno qualche consiglio per prevenire o togliere un po' quella ruggine. Sì, proviamo a schematizzarlo molto rapidamente. In primo luogo, io non mi addentrerò sugli aspetti alimentari, ci sono persone più brave di me a dirlo. In primo luogo quello del sonno, non tanto quanto dormiamo, ma riduciamo il social jet lag, cioè la distanza che c'è tra quando suona la campanella biologica per andare a dormire e quando noi invece, un po' impuniti, decidiamo di andare a letto. Secondo aspetto, come un viscere che si rispetti, deve essere allenato. E proviamo a fare, visto che domani è carnevale e poi dopo comincia la quaresima, di fare un 2-3 settimane, non diciamo di passione, ma di buona volontà. La prima è la settimana dedicata alla memoria visuo-spaziale. È chiaro che io non sto dando degli elisir di lunga vita, ma maniere per attivare delle funzioni che noi teniamo un po' in letargo. Io ho notato addirittura a Milano tassisti che girano col navigatore. Allora, memoria viso-spaziale, chiunque ci senta, vi è il navigatore se lo si usa, e comunque per una settimana, 5 giorni lavorativi, andare al lavoro se si usa la macchina o a piedi comunque e ritornare facendo 5 itinerari differenti. La seconda settimana la facciamo invece per la memoria propriamente detta, e in questo caso noi non dovremo utilizzare le memorie automatiche del cellulare per quanto riguarda i numeri, per esempio i numeri a 6 o 7 cifre, si tratta dei numeri di abitazioni in questo caso. L'elemento su cui vorrei far riflettere è che noi non è che facciamo fatica a ricordare i numeri, disimpariamo i numeri delle persone care. Allora la seconda settimana figli, moglie, marito, collaboratori, amici li chiamiamo componendo i numeri e non schiacciando il tasto della memoria. La terza settimana è quella più difficile, è la settimana in cui leviamo l'agenda, ora non l'agenda magari di un grandissimo professionista, ma leviamo le applicazioni dei nostri smartphone, che sono degli elementi mi spiace dirlo da neurologo, fortemente inquinanti, perché abbiamo tutti più di una segretaria, e cerchiamo di utilizzare delle sigle. Queste sono delle tecniche mnesiche validate, per esempio quella delle rime. Io penserò a Mary, che non è un nome di battesimo, ma meccanico riunione, e il giorno dopo, se sono donna, magari penserò a colpa, non il senso, ma colloquio con i professori e parrucchiere. E infine, come ultima cosa, se siamo in fila, in macchina, e vogliamo in qualche maniera tenere allenato il cervello, guardiamo le ultime due o tre cifre del contachilometri e sottraiamo 7. Moltiplicare o dividere sarebbe una tortura. Sottrarre però è faticosino lo stesso, e il numero 7 viene usato nei test neurocognitivi proprio perché è una sottrazione abbastanza indaginosa. Facciamolo sosta per sosta e verremo fuori forse un pochino più allenati. Professor Barbanti, mi sento già nuova. Inizieremo questo programma. Così poco. Grazie professore per essere stato con noi, grazie, e grazie per lo schema di allenamento. Abbiamo in linea con noi per pochi minuti anche il dottor Ivano Lupino, buongiorno, dermatologo plastico a Milano e Catania, responsabile nazionale del Dipartimento Laser dell'ISPLAD. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a chi ci ascolta. Stiamo in cerca di ruggine insieme al professor Borghi, abbiamo parlato della ruggine che si può depositare nelle nostre arterie, abbiamo parlato di colesterolo, abbiamo anche raccontato come e perché è utile l'allenamento fisico e anche una dieta varia ed equilibrata. La ruggine di solito non la sentiamo, la valutiamo con gli esami del sangue, ma possiamo anche vederla nella zona intorno ai nostri occhi, la zona perioculare, spesso sede della formazione di piccole sacchette di grasso. Noi pensiamo subito al colesterolo, di solito sono gialle. Dottor Lupino, è colesterolo? Sono gli xantelasmi, è una parola che deriva da due insieme, un xantos vuol dire giallo, l'asma vuol dire piatto. Sono in realtà non proprio accumuli di colesterolo, ma derivati metabolici del colesterolo, sono esteri, e non c'è una correlazione diretta ancora riconosciuta tra l'ipercolesterolemia e lo xantelasma, che non c'è neanche una correlazione con altre alterazioni degli acidi grassi, ad esempio nel sangue, ma c'è da considerare che possono essere eliminate efficacemente oggi. Come? Con la tecnica ablativa dei laser, quali il laser CO2 o il laser ad erbio, che eliminano completamente questo inestetismo, lasciando delle residue quasi inestetiche cicatrici. E una cosa che mi preme considerare è che sono ad altissimo tasso di recidiva, cioè qualsiasi sia il mezzo che si usa per la loro eliminazione, la presenza successiva è quasi sempre verificabile. Grazie dottor Lupino per averci tranquillizzato. Insomma, si possono eliminare queste fastidiose sacchette di grasso, ma spesso ritornano. Grazie al dottor Lupino. Professor Borghi, salutiamoci con un messaggio, abbiamo un minutino. Beh, il messaggio è che fondamentalmente, come sempre, anche nell'ambito del problema del colesterolo, molto del nostro destino è nelle nostre mani. Certamente c'è una quota importante che deriva dalla nostra familiarità, ma il fatto che questa familiarità poi si renda evidente contribuendo a produrre quella ruggine che tanti problemi ci può creare dipende anche da noi. Quindi cerchiamo di seguire il più possibile gli eccellenti consigli che sono stati dati in questa oretta nella quale siamo rimasti insieme. Credo che potremo tutti sperare in un futuro molto migliore per le nostre arterie, soprattutto in un futuro fatto di un'antiruggine naturale che siamo noi stessi. Grazie professor Borghi per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Noi ci sentiamo come sempre domani, ma intanto, se volete, scriveteci, scaricateci, insomma rimaniamo in contatto. Buonissima giornata, statemi bene. Essere e benessere.